Salve a tutti gli amici di Radio Big World, io sono Stefania e sono alla mia quarta puntata del programma Il Popolo di Barabba, dove l'educazione è il filo conduttore della trasmissione. Stamani mattina ho letto sui giornali che 7-8 bambini di 13-14 anni sono stati portati in ospedale per coma etilico perché avevano partecipato ad Arezzo a una festa di Halloween. Questa cosa mi ha rattristito profondamente perché bambini di 13-14 anni, mi chiedo dove fossero i genitori, dove fosse la famiglia, poi non sono certo qui a giudicare, però una domanda me la faccio: come si può mandare un bambino di 13-14 anni da solo a una festa di Halloween tutta la notte? Ecco, per poi arrivare a questi risultati, perché a questi risultati ci si può arrivare. Peraltro io non sono favorevole alla festa di Halloween perché credo che sia una festa commerciale, basta, non ci appartiene. Ma non solo non ci appartiene, perché poteva anche essere tra noi la festa di Halloween se avesse avuto uno scopo, perché molti sapranno che è un'usanza che risale ai popoli celtici che celebravano lo Samhain, non so come si pronuncia bene, che sarebbe praticamente la fine della stagione estiva o l'inizio dell'anno nuovo, per ringraziare gli spiriti per i raccolti che avevano avuto prima di entrare poi nell'inverno. Quindi è una festa che proprio non è nostra, non so quali siano i valori che ci possono aggregare a questa festa. Noi lo abbiamo importata dagli americani in maniera del tutto così commerciale, senza fondamenti. Non mi piace, la trovo una festa diseducativa e sarebbe opportuno, almeno questo è il mio punto di vista, che non venisse enfatizzata. Far sì che la festa di Halloween venga abolita è una cosa praticamente impossibile da fare, però possiamo non enfatizzarla. Intanto cercando tra le insegnanti più sensibili a questo problema, che invece di enfatizzare Halloween possono per esempio valorizzare la nostra festa del primo di novembre, che è la festa di Tutti i Santi, per esempio, e si comincia da lì. Io non sono contraria a mescolarsi, anzi, siamo in un tempo di globalizzazione, credo che mescolarsi comunque sia una cosa benefica, a prescindere. La cosa importante è però avere quelle capacità intellettive di capire che cosa è bene e che cosa non è bene fare nel nostro mescolarsi. Perché mescolarsi sicuramente è una cosa positiva, perché ci aiuta a confrontarci con gli altri, ci aiuta a vedere i nostri piccoli sbagli, i nostri errori, ma anche la nostra valorizzazione, le nostre potenzialità. Quindi sicuramente ci aiuta ad essere migliori, però qualora ci siano quegli strumenti intellettivi che consentono di fare questa scelta. Laddove non c'è queste qualità, queste possibilità, beh, allora si diventa tutti il popolo di Barabba. Per ritornare al mio titolo iniziale, tutti seguiamo la scia che ci viene così calata dall'alto per necessità commerciali, per necessità di business o non so per quale altro motivo, sicuramente ce ne sono altri, ma io non li conosco. E comunque solo per essere una festa così sciocca, almeno questo è il mio punto di vista, io non sono d'accordo. Si vive in un tempo di tanto chiasso, di tanta confusione. I nostri bambini sono tempestati dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, di chiacchiere, di cose da fare. Non riescono più a stare da soli a giocare, semplicemente giocare. Eppure i più grandi pedagogisti ci dicono e ci insegnano che il momento di crescita del bambino è quello in cui sta da solo a giocare, a sperimentare con l'ambiente chi è e che cosa vuole fare in quel momento, nel gioco. È qui che il bambino cresce effettivamente. E invece oggi lo tempestiamo di tanta confusione, al punto che questi bambini sono disorientati, sono alcuni spaventati, altri arrabbiati, bambini comunque che vivono nel caos. Io ho fatto un viaggio in Africa, ne ho fatti diversi, ma il primo è stato quello che mi ha segnato un po' di più, ecco, rispetto a queste tematiche. Sono stata un mese in Tanzania, in un posto dove non c'era praticamente niente di tutto quello che siamo abituati ad avere noi qui nel nostro occidente. C'era la gente, c'erano le relazioni, questo sì. Il resto non esisteva, non esisteva la televisione, non esisteva la luce, non esisteva l'acqua corrente, niente di tutto ciò. Però esistevano le relazioni. E per me quello è stato un mese bellissimo, è stato praticamente, se la vogliamo mettere così, la vacanza più bella della mia vita, perché sono entrata in contatto con me stessa. Quando sono tornata e ho raccontato la mia esperienza, una signora mi si è avvicinata e mi ha fatto una domanda pertinente e interessante e mi ha detto: senti, mi devi spiegare perché il sorriso di un bambino che vive nel nostro paese, magari il tuo vicino di casa, non ci entusiasma come invece il sorriso di un bambino in Africa. Oppure perché l'abbraccio di un, o gli auguri di un vicino di casa o di un paesano che tu conosci non ci appassiona come l'abbraccio o la stretta di mano di una persona adulta che vive in Africa. E mi ha fatto parecchio riflettere questa cosa e ho pensato che noi non viviamo più nella semplicità, non viviamo più nella essenzialità, nella concretezza, e questo ci ha fatto perdere di vista il senso della relazione con l'altro, perché la semplicità, vivere una vita un po' priva di orpelli, di tutte quelle cose che non sono utili nel stare insieme all'altro, e questo lo abbiamo un po' perso, nella essenzialità, praticamente come siamo circondati da mille cose che non ci servono davvero. Io vivo in una casa dove ho mille soprammobili e mi dico: ma quanti soldi ho speso per comprare tutte queste cose che non mi servono, sono praticamente inutili, e ho lavorato una vita intera, tra poco forse una parte del mio lavoro l'ho buttata praticamente via perché queste cose non sono utili. E poi la concretezza delle cose, quella che ti dà la sensazione di essere più che di avere. Ecco, in Africa ho sperimentato tutto questo e per un attimo ho pensato di non essere, di non appartenere al popolo di Baraba, e credetemi, era una sensazione meravigliosa. Mi sembrava di essere libera e di fare le scelte che volevo fare, la vita che volevo vivere in totale libertà. Io, cari amici, credo di concludere qui questa mia puntata. Vi invito davvero a contattare Radio Big World o a contattare me attraverso Radio Big World per dirmi la vostra impressione su quello che vi ho raccontato. Vi ringrazio della vostra pazienza, vi saluto e alla prossima puntata.